Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 28. Electric Funeral. Due urne in legno attendevano immote, poggiate su due colonne in stile greco presso il luogo dell'incidente, aspettavano. Era una zona erbosa dove qualcuno aveva iniziato a piantare fiori, presto imitato dai suoi compagni. I lavori di costruzione della cattedrale erano stati sospesi. Ovunque c'erano fiori, nastri colorati con nomi o soprannomi degli scomparsi, sbiadite foto di famiglia, foto dei vecchi tempi della Resi. In sottofondo i Megadeth continuavano il concerto bruscamente interrotto dall'arrivo del bulldozer. A Tout le Monde, in ogni possibile versione, suonava ininterrottamente dalla sera prima. Il nero era stato categorico, aveva sempre espresso la volontà di averla come colonna sonora del proprio eventuale funerale. Se ne erano ricordati. Sua regina salì su uno stretto pulpito eretto fra le colonne. Non c'è inferno, non c'è paradiso, ma la memoria sì, c'è. Non sarà facile tirare fuori bellezza e armonia da questo disastro, ma ce la faremo. I nostri cari amici saranno sempre con noi, parleranno nei nostri cuori quando li chiameremo a noi. Le Anne, col fazzoletto pronto, si asciugavano la non prima lacrima. Acqua di Cane aveva il viso seminascosto nell'ampia manica del maglione bianco. Il loro ricordo ci rallegrerà e ci scalderà quando ne avremo nostalgia. Per oggi il nostro dovere è essere felici. Felici di averli conosciuti, di avere condiviso con loro questi tempi straordinari. La rossa sbuffò nel fazzoletto, le pizzicava la testa. Con un gesto si liberò del velo bianco che le copriva i capelli. Qui, dove li abbiamo avuti con noi per l'ultima volta, li raffigureremo belli come li abbiamo conosciuti. Acqua di Cane non poté fare a meno di cedere a una risatina nervosa. Belli era l'ultimo degli aggettivi che avrebbe usato per i suoi vecchi amici. Suor Regina si voltò verso le colonne. Due biancovestiti portavano un baule di legno intarsiato con motivi a spirale e ricoperto di fiori. Lo appoggiarono a terra davanti a lei. La suora prese un rotolo di carta legato da un nastro rosso, se lo premette alcuni istanti sulla fronte, poi lo pose su un cuscino di seta bianco e adagiò il tutto nel baule. Dietro di lei si era formata una fila di persone. Ciascuno reggeva un omaggio nelle mani protese. Diossido fu il primo. Depose un vecchio vinile dalla copertina lisa, stette un attimo in silenzio davanti alle urne e si allontanò con un'espressione indecifrabile. Paolo aveva la chitarra di cui si impossessava il pescatore ogni volta che gli capitava in casa. Le corde spezzate che ancora penzolavano ne erano l'inevitabile conseguenza. «Tanto la lasciavo lì per te. Vedi di farti durare quelle rimaste», disse con una smorfia triste. Billy lasciò due paia di bacchette di legno chiaro e due piccoli bonghi africani. Se li litigavano sempre durante le serate a base di chitarra, canti e canne. Li avrebbero tenuti impegnati anche di là. Il Marra, furtivo, sistemò un involucro argentato e un pacchetto di tabacco e cartine. «Il migliore che ho trovato», gracchiò sommesso. Acqua di Cane adagiò in un angolo della cassa un cappello da pescatore color carta da zucchero, con dei piccoli taschini chiusi da una lampo sul fianco. All'altra estremità arrotolò una sciarpa rossa e nera e una spilletta tonda dei Joy Division. La nera e la rossa, fianco a fianco, reggevano un sacco da cui tiravano fuori petali di rosa, rossi e bianchi. Caddero silenziosi e lenti fino a sommergere le offerte nella cassa. Quando tutti furono tornati ai loro posti, Suor Carmelina e Suor Regina presero le urne e le trasferirono sul morbido letto di petali nel baule. i biancovestiti richiusero il coperchio, sollevarono il baule e lo trasportarono poco lontano su una piattaforma composta da spire di tubi di metallo. Suor Regina alzò le mani al cielo, levò in alto lo sguardo e proferì con voce sonora: «Tornate all'universo, cari amici, e accompagnateci lungo la via fino al nostro prossimo incontro». Con un cenno del capo, diede il via alla fase conclusiva della cerimonia. Dapprima si udì uno schiocco quando scattò la scintilla. Poi dai tubi iniziarono ad uscire fiammelle azzurre che aumentavano velocemente di dimensione. In meno di un minuto le fiamme si erano ingrandite fino a ricoprire interamente il baule. Il fuoco aveva assunto diversi toni di colore, dal giallo al verde. Le scintille erano corvi rossi che si libravano sui presenti. Le note di Atulemon accompagnavano il rogo. Si udivano i canti dei punk che, al solito, facevano gruppo a sé, distaccati dal resto dei presenti. La pira ardeva, rossa e azzurrina. Volute di fumo si spandevano sulla cima della collina. Ogni tanto un aroma pungente faceva riemergere vecchi ricordi fra i veterani della Resi. Le fiamme già stavano consumando le parti più spesse. Del baule e delle urne non restavano che pochi pezzetti di legno carbonizzato. La maggior parte era divenuta cenere che svolazzava verso il mare e la città distesa ai loro piedi. Quando infine le fiamme si spensero, dai fori delle serpentine di metallo iniziò a zampillare acqua, dapprima lentamente, poi con maggior forza, fino a formare una colonna di spruzzi che, riflettendo i colori del cielo e del prato, lavò via ogni traccia residua del rogo. Questa volta nessun dio dal cielo scese sulla terra per salvare il pescatore dalle acque. Questa volta il dio era rimasto in disparte, sotto il cappellone e dietro il tronco di un pino per tutta la durata della cerimonia. I suoi vecchi amici offrivano mesti il loro ultimo saluto agli scomparsi e lui era lì, più per se stesso che per i due trapassati. Sebbene in tutta la sua vita non avesse mai preso parte a un funerale, neanche a quello dei suoi genitori, ora che la cerimonia era terminata, Drago si sentiva stranamente in pace. Non aveva detto niente neanche a Diossido, stava aspettando il momento per allontanarsi inosservato. I vecchi compagni della Resi erano gli ultimi ad allontanarsi dall'area, un gruppetto dalle schiene curve. Drago li seguiva con lo sguardo, pronto a lasciare la collina non appena la via fosse stata sgombra, quando un sussurro improvviso dietro di sé lo inchiodò al suolo. «Sei tu?» Drago si girò di scatto. Era il Marra. Lo squadrava, obliquo. «Sei qui per sistemare tutto, vero?» gli chiesero due rotonde pupille a spillo da corvo impagliato. Drago non ebbe neanche il tempo di reagire che l'uccellaccio si mise a strillare: «È lui! È disceso! È qui!» mentre, non contento degli strepitii, saltava mulinando in aria le lunghe ossute braccia come un tacchino preso dal raptus di un impossibile volo. Ozelot si voltò e, al rallentatore, vide Acqua di Cane fermarsi e guardare nella sua direzione. Poi due giovani suore dall'aspetto familiare, un enorme lottatore di sumo vestito con gli stessi abiti religiosi e un'altra suora che sembrava fatta di rugosa pergamena. Tutti proruppero in esclamazioni di sorpresa che gli fecero arricciare la pelle sulla nuca. Che errore dare per scontato che, standosene in disparte, sarebbe potuto passare inosservato. Vide altre teste che si giravano per vedere che cosa stava succedendo. Acqua di Cane e le suore correvano verso di lui ululando come coyote. Il lottatore di sumo alzava nuvole di polvere a ogni passo. Diossido era rimasto dov'era. Osservava la scena a braccia conserte. Gli sembrò di scorgergli sul volto un sorrisetto ironico. Fece un passo indietro, sbatté contro il Marra. Il cappello dalle larghe falde gli cadde planando sull'erba. Vide il Marra che si guardava stupito le parti del corpo che erano venute in miracoloso contatto con il senza nome. ciangottava mozziconi di parole in chissà quale lingua, se solo quel cazzone fosse stato zitto. Le gambe erano diventate molli come cera, la vista gli si stava appannando. Con panico si rese conto di stare subendo un attacco di panico. Annaspò nelle tasche per prendere il Devil. Non c'era. Si maledisse per la sua eccessiva sicurezza. La strada dove aveva lasciato la macchina non era troppo lontano. Doveva iniziare a correre, ma non riusciva a distogliere lo sguardo dalla fila di persone che avanzavano verso di lui. Stavano tornando tutti indietro. Bisognava agire subito. Dribblò rapido il marra, ancora intento a tastarsi le costole, e schizzò verso la strada incespicando nel terreno. Le formiche non lo avrebbero divorato se fosse stato abbastanza veloce. Perché non si fermavano? Cosa volevano da lui? La strada era appena dietro la siepe di sempreverdi. Corse senza voltarsi e con un salto si aprì la strada fra i cespugli. Proprio mentre con un piede si appoggiava al suolo, l'altro gli rimase incastrato fra i viticci. Cercò di mantenersi in equilibrio, annaspò e rovinò a terra. Una scheggia di vetro verde gli si conficcò nel palmo di una mano. Bestemmiò. La paura lo sommerse dall'alto come una coperta bollente. Si rialzò per precipitarsi verso la macchina. Aprì la portiera sbattendo il ginocchio sullo spigolo aguzzo. Centinaia di stelline bianche gli urlarono strilli incandescenti danzandogli nel campo visivo. Fece appena in tempo a sgommare via prima che la strada si riempisse di gente. Non era sicuro che lo avrebbero inseguito anche in macchina, ma non voleva scoprirlo. Meno male che ultimamente il senza nome guidava una Ferrari. Il sudore gli ghiacciava la nuca. Stava iniziando ad avere brividi e tremori alle gambe. Sentì la carrozzeria strisciare sul guardrail come unghie sulla pietra. Riprese il controllo di sé solo dopo una decina di chilometri, passati a sorpassare ogni cosa che gli si parasse davanti. La mano destra pulsava e sanguinava, schizzi rossi sui sedili bianchi, modello senza nome a pois. Lentamente il respiro si calmò. Stava percorrendo una strada con larghi tornanti che risaliva a un colle. Ma perché era scappato? Perché aveva avuto la sensazione che questa volta non si sarebbero semplicemente fermati in muta adorazione? Era stato goffo, si era mosso in modo improvvisato. La morte del nero e del pescatore lo aveva colpito più di quello che pensava. «Sei qui per sistemare?» aveva detto lo spauracchio che gli si era materializzato improvvisamente alle spalle. Roba da matti. Cos'era lui, un idraulico? Sistemare cosa? Non era andato a sistemare niente. Era tornato solo per... Non era più sicuro. Sistemare. Nel lessico lunare del Marra, sistemare forse significava rimettere le cose a posto e forse anche rimettere a posto le persone. E gli altri? Cosa avevano pensato gli altri vedendo il senza nome appena dopo aver seppellito i loro amici? Il ginocchio aveva iniziato a manifestare la sua presenza. Spediva acute fitte di protesta che gli impedivano di pensare. C'era una radura alla sua destra. Lasciò una striscia nera di frenata e si fermò sotto le basse fronde di un castagno. Il motore smise di ronfare. Le cicale si esibivano nel loro repertorio. L'aria era ferma. Era da solo. Ancora. La mano destra sanguinava meno, ma la ferita era sporca. La pulì come meglio poté contro la pelle bianca dei sedili. Puro sangue del senza nome. Quella Ferrari rischiava di diventare una sacra reliquia. Afferrò il cellulare, stramaledicendolo per tutto il tempo che impiegò ad accendersi. Doveva sapere.